Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia un'altra puntata di Focus Economia in diretta dal World Business Forum qui alla Fiera di Milano, ospiti di DNV. Parleremo oggi soprattutto di risparmio. Alcuni di voi avranno sentito la diretta di Radio 24 questa mattina, in cui abbiamo trasmesso integralmente la relazione del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi e poi quella del ministro dell'Economia Giulio Tremonti in occasione appunto della giornata mondiale del risparmio, 85esima giornata. Molti temi toccati da un governatore forse anche più sferzante del ministro dell'Economia, anche se le tesi potevano essere diverse, sferzante nei confronti del mondo bancario, degli effetti di questa crisi e anche è tornato sui compensi dei manager del mondo bancario. Il ministro Tremonti invece si è detto preoccupato, al di là di un ragionamento anche molto di scenario, preoccupato per l'andamento delle borse da un lato, che non è e non trova un corrispondente nell'andamento economico. Le borse sono a 60-70% di rialzo rispetto al minimo del 9 marzo, ma sono a quasi un 20% di rialzo rispetto a gennaio del 2009, e quindi in momento di piena crisi non siamo tornati in molti casi sui livelli quasi pre-crisi, senza che però l'economia stia seguendo questo andamento dei mercati azionari. E allora il timore e la paura di Tremonti si chiamano di nuovo bolla e speculazione sui mercati azionari, eccesso di liquidità, ma anche, lo ha citato in maniera esplicita, timore per un forte ricorso di nuovo da parte dei gruppi bancari mondiali, quindi americani in primo luogo, ma non solo, forte ricorso, dicevo, agli strumenti derivati, quegli strumenti che sono stati da molti visti come il vero virus della malattia che poi ha colpito i mercati finanziari, non tanto lo strumento in sé quanto il loro utilizzo assolutamente ipertrofico. E poi i fondi a sostegno delle imprese, novità anche per quello che riguarda questo decreto che arriverà in Parlamento, questo emendamento sulla ipotesi di un taglio dell'IRAP. Poi parleremo di borsa che oggi va a recuperare non tutto ma parte di quello che ha perso in queste sedute, più 1,8% il FTSE MIB e anche il FTSE All Shares, più 1,3% Parigi, più 1,4% Francoforte, più 1% Londra. L'America invece guadagna l'1,2% in questo momento, con un euro a quota 1,48,25. Si segnala come miglior titolo Bulgari, più 5,3%, Exor più 5% come Unipol e Fiat, e Banca Popolare di Milano più 4,3% come Mediolanum e come Pirelli, e anche Fondiaria Assai e Unicredito, tutti in recupero dei titoli che ieri più avevano ceduto. Ancora il 3,7% lo guadagna il Banco Popolare, ma anche Luxottica, il 3,2% rialzo di Buzzi, Unicem e delle Campari. Unico titolo in flessione Eni, meno 0,7% tra quelli a maggiore capitalizzazione. In assoluto invece il miglior titolo è Banca Italease, più 15%, e poi Elica, più 11,5%, Antichi Pellettieri, più 10,6%, e Seat Pagine Gialle, più 9,4%. Il peggior titolo sostanzialmente Neurosoft, meno 7,8%, e France Telecom, meno 2,9%. Le borse sono ben intonate anche perché dall'America sono arrivati dei dati, e anche di questo parleremo dopo, i mercati complessivamente positivi, non sul fronte dell'occupazione, che secondo lo stesso ministro dell'economia americano, il segretario del tesoro Timothy Geithner, resta a livelli inaccettabili, ma il dato di oggi è peggiore comunque delle stime degli analisti, ma buono il dato sul PIL, quindi sull'economia americana, che per la prima volta da quando è iniziata questa crisi torna a crescere, e tornano a crescere anche i consumi. Ultimo tema che tratteremo domani, Focus Economia come ogni anno sarà in diretta da Capri, dove si apriranno i lavori delle due giorni dedicata all'economia del Mediterraneo e dei paesi medio orientali, organizzata come ogni anno dai giovani imprenditori di Confindustria. Sabato vi saranno i ministri Tremonti e Maroni, oltre che l'intervento conclusivo di Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria, e parleremo appunto anche di questi temi con la presidente dei giovani imprenditori Federica Guidi, che di fatto organizza e ospita l'evento. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le notizie in breve. Il petrolio ha aperto in rialzo, ma siamo sempre leggermente sotto gli 80 dollari al barile, siamo praticamente a 78,85. Ancora per quello che riguarda l'energia, ExxonMobil utile in calo a 4 miliardi e 730 milioni di dollari, peggio delle stime. E tra l'altro, se pensate che l'anno scorso nello stesso periodo aveva registrato il colosso petrolifero ExxonMobil 14, quasi 15 miliardi di utile nel terzo trimestre appunto del 2008. Male anche Shell, la trimestrale vede un utile calare del 62%, pesa il calo della domanda di benzina, utile pari a 3 miliardi 250 milioni di dollari contro gli 8 miliardi e mezzo dell'anno scorso. E la benzina però è tornata a salire ai massimi da un anno, 1,33 euro è il prezzo ritoccato dalla Shell, 0,5 millesimi, il litro di verde per la precisione è 1,334 euro, il valore più alto da oltre un anno, e i consumatori per voce del Codacons fanno sapere che con gli aumenti registrati in queste ore nei listini di carburante il pieno di benzina costerà in media 4 euro e mezzo in più rispetto a un mese fa e 4 euro in più rispetto a un pieno di gasolio. Dicevamo già dei dati americani, li commenteremo tra poco. Comunque il PIL statunitense segna il primo rialzo da oltre un anno, un tasso di crescita del 3,5%, prima stima diffusa oggi, superiore alle attese. Questa è una buona notizia, vedremo poi quanto verrà confermata dai dati corretti e poi anche dai dati dei prossimi trimestri. Ma ripartono i consumi negli Stati Uniti. I consumatori, lo diciamo spesso, ma insomma la spesa per consumi negli Stati Uniti rappresenta il 70% del PIL, i due terzi del PIL, e ha avuto un aumento del 3,5% negli ultimi tre mesi, veniva da un trimestre precedente, il secondo dell'anno, con un calo di quasi l'1%, dato questo superiore anche alle stime degli analisti. Peggiore dell'attesa invece la disoccupazione. I sussidi sono calati ma molto poco, solo di 1.000 unità, 530.000 unità, e appunto il segretario tesoro americano Timothy Geithner ha detto: per milioni di americani gli effetti della recessione restano e i livelli di disoccupazione sono inaccettabili. Calo inatteso invece della disoccupazione in Germania, ci si attendeva un aumento dei disoccupati, almeno 150.000 persone in più, e invece c'è stato un calo a 3.430.000, 26.000 disoccupati in meno nell'ultimo dato, che appunto riguarda il mese di ottobre. La disoccupazione tedesca va così all'8,1%. Veniamo all'Italia, tornano ad aumentare le assenze per malattia nella pubblica amministrazione, più 24% a settembre rispetto a settembre del 2008, è la seconda volta che tornano ad aumentare dopo più di un anno di riduzioni, alcuni hanno parlato di effetto Brunetta, effetto di controlli, ma insomma è la seconda volta dopo più di un anno di riduzioni che tornano ad aumentare le assenze per malattia nella pubblica amministrazione. E oggi il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta ha deciso di estendere a 7 ore la reperibilità dei dipendenti statali in malattia, cioè vuol dire quando uno deve essere reperibile per la visita fiscale, la visita di controllo medico, e dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 18. Sono 3 ore in più. Unicredito, cambiamo tema, nella divisione Credit Management Bank si è detta disponibile a valutare l'acquisto pro soluto degli eventuali crediti vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione, devono riguardare contratti di somministrazione, di fornitura e di appalto. Sempre in tema di imprese, dopo le ipotesi di ieri sul mini taglio dell'IRAP è arrivata una bozza di emendamento firmato da 10 senatori della PDL e della Lega, che prevede un taglio fino a 4 miliardi dell'IRAP per le imprese sotto i 50 dipendenti, sarà totalmente deducibile, invece parzialmente deducibile per quelle oltre 50, ma per una quota di 50 dipendenti. Stiamo parlando infatti di una riduzione, di una proposta di riduzione dell'IRAP solo per quello che riguarda i lavoratori dipendenti, cioè la parte che si paga per la quota di occupati, però il vice ministro dell'economia Giuseppe Vegas ha detto attenzione, si andrà verso una bocciatura tecnica dell'emendamento sull'IRAP e in commissione a malincuore il governo esprimerà parere contrario. Primo tema allora di questa puntata e ci occupiamo della giornata mondiale del risparmio con l'invito che è arrivato oggi, il messaggio che è arrivato oggi dal Presidente della Repubblica Napolitano, poi dal Presidente del Consiglio Berlusconi e invece gli interventi veri e propri del Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi e del Ministro dell'Economia Giulio Tremonti. Servono nuove regole e istituzioni forti, così il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in un messaggio da letto in occasione della giornata mondiale del risparmio, nuove regole e istituzioni forti per superare gli effetti della crisi globale e per contenere le difficoltà e le tensioni che questa sta producendo e ha prodotto. Anche il Presidente del Consiglio sul tema ha detto è iniziata lentamente la ripresa, il peggio della crisi finanziaria sembra sia alle nostre spalle e sembra che sia iniziata sia pur lentamente la ripresa, ma ha chiesto sempre il Presidente del Consiglio una maggiore convergenza nell'interesse del Paese tra banche e imprese. Oggi sono intervenuti, poi ascolteremo alcuni passaggi, anche il Presidente dell'ACRI, quindi chi faceva gli onori di casa, Presidente delle fondazioni bancarie, delle casse di risparmio, Giuseppe Guzzetti, e il Presidente dell'ABI Faissola. Però c'era molta attesa per l'intervento di Mario Draghi e Giulio Tremonti. Ho detto in apertura che forse Draghi è stato anche più sferzante col mondo bancario del ministro Tremonti, il quale non ha mai lesinato critiche in diverse occasioni a alcuni atteggiamenti dei banchieri, ma insomma io partirei proprio con quello che mi sembra il titolo dell'intervento del governatore della Banca d'Italia. Attenzione, nulla tornerà come prima. Che si dica, il mercato non ha ancora dimenticato che la crisi è conseguenza della sua stessa imprudenza. Non è neanche auspicabile che ciò accada. La risposta della politica economica alla crisi, nella sua ampiezza, testimonia l'intensità del trauma. Le cose non torneranno come prima. Ed è bene che tutti gli attori sui mercati finanziari, per prime le banche, ne prendano atto. Nulla tornerà come prima, è bene che tutti gli operatori finanziari a partire dalle banche ne prendano atto. Già in questo inizio c'era poi la traccia di quello che è stato l'intervento del governatore della Banca d'Italia, il quale ha detto attenzione alle banche italiane, la situazione resta fragile, c'è un deterioramento della qualità del credito, il che vuol dire sostanzialmente che anche i crediti concessi peggiorano, le sofferenze bancarie peggiorano, ma pur riconoscendo che il sistema bancario ha resistito alla crisi meglio di altri, le banche dovranno aumentare il loro patrimonio, quindi si andrà verso una revisione dei criteri contabili di Basilea 2, e però per non scatenare eccessive paure, ha detto anche Draghi, non abbiate timore, non avverrà subito, avverrà nel momento in cui sarete completamente uscite da questa fase di difficoltà. Sentiamo. Il nostro sistema bancario ha resistito alla crisi molto meglio di altri. Non va però allentata la guardia perché la situazione resta esposta a fragilità. Il patrimonio delle banche italiane è superiore ai minimi regolamentari. Dati relativi allo scorso giugno indicano per i 5 maggiori gruppi un miglioramento della situazione patrimoniale rispetto alla fine del 2008. Non dobbiamo trascurare i pericoli insiti in una situazione economica ancora delicata. La qualità del credito è in forte deterioramento. Il flusso di nuovi prestiti in sofferenza in rapporto a quelli complessivi, al netto dei fattori stagionali, ha sfiorato il 2% nel secondo trimestre. La crescita del tasso di ingresso in sofferenza è stata particolarmente marcata per i crediti alle imprese. Gli effetti della recessione sui profitti delle banche sono già significativi. Per i primi 5 gruppi, pur in presenza di una buona tenuta del risultato di gestione, nel primo semestre di quest'anno i profitti si sono ridotti di quasi il 60% rispetto allo stesso periodo del 2008. Dall'inizio del 2009 le aspettative degli analisti finanziari sono state più volte riviste al ribasso. Gli utili registrerebbero una ripresa solo nel 2011, pur rimanendo al di sotto dei risultati conseguiti nello scorso anno. Destinare un ammontare significativo di risorse al rafforzamento patrimoniale è essenziale. Il Comitato di Basilea sta ora lavorando a una complessiva revisione della nozione di patrimonio di vigilanza. Al momento è emerso un orientamento favorevole a una definizione restrittiva della componente predominante del patrimonio di base, che per le società per azioni dovrebbe essere essenzialmente limitata alle azioni ordinarie e alle riserve. Entro la fine di quest'anno il Comitato presenterà nuove disposizioni sulla gestione e sulla supervisione della liquidità, perché le banche possano, meglio che in passato, fronteggiare improvvise condizioni di stress dei mercati e perché gestiscano in maniera più attenta la trasformazione delle scadenze nei loro bilanci. Comunque, il complesso di queste regole sarà oggetto di un articolato studio di impatto nel 2010 e sarà introdotto con la dovuta gradualità al fine di non ostacolare la ripresa economica. Quindi non c'è motivo di allarmi eccessivi. Siamo per primi noi consapevoli che una frettolosa introduzione di questi requisiti patrimoniali più esigenti in questo momento potrebbe avere conseguenze negative sull'erogazione del credito. Quindi ha parzialmente tranquillizzato i banchieri, tutti presenti oggi alla Giornata Mondiale del Risparmio. Non li introdurremo subito, anche perché sennò sappiamo che dover aumentare il patrimonio potrebbe portare di nuovo le banche a restringere il credito concesso. Però attenzione, che la linea guida sarà di banche che devono avere maggiore patrimonio in base alle operazioni che effettuano, per cui per ogni operazione, la diciamo in maniera un po' semplicistica, vi sarà da accantonare più patrimonio, soprattutto, immaginiamo di capire, anche per quelle operazioni di carattere particolarmente rischioso e speculativo. Comunque, il governatore della Banca d'Italia, questo è l'ultimo passaggio che vi facciamo sentire relativamente al mondo bancario, cioè nella sua veste di autorità di vigilanza e controllo del mondo bancario, è tornato sul tema dei bonus ai manager. Già ieri aveva chiesto la Banca d'Italia alle banche di affrettarsi a introdurre le nuove direttive in materia del Financial Stability Board sui compensi dei manager, per cui sappiamo che è un grosso tema. Una delle accuse sui motivi scatenanti di questa crisi è anche che i manager avevano compensi troppo alti, troppo brevi, quindi erano portati a assumersi rischi troppo alti, perché tanto l'eventuale fallimento di queste operazioni non avrebbe avuto ripercussioni sui loro guadagni. E allora il passaggio è di nuovo richiamo del governatore. Le nuove regole sulle remunerazioni presentate al Financial Stability Board all'ultimo summit del G20 si applicano al top management, ma anche a tutti coloro che hanno il potere di prendere decisioni che possono avere un impatto significativo sul bilancio della banca. Prevedono che gran parte della remunerazione sia variabile, legata all'andamento dell'azienda, con pagamento differito nel tempo per almeno 3 anni, sotto forma di titoli e recuperabile se la performance aziendale o quella del dirigente non fossero soddisfacenti. Queste regole mirano a contrastare l'eccessiva assunzione di rischi, il perseguimento di obiettivi di breve periodo, la scarsa trasparenza della struttura dei compensi. Valorizzano il ruolo di controllo del consiglio di amministrazione degli azionisti. Soprattutto, e questo forse è il punto più importante, estendono l'area di responsabilità della vigilanza alla materia dei compensi, fino ad oggi considerata materia puramente contrattuale. La Banca d'Italia, sin dal marzo 2008, ha introdotto principi e linee applicative in questa materia, validi per tutte le banche, in parte anticipando gli sviluppi a livello internazionale. Sono stati forniti ieri a tutti gli intermediari ulteriori criteri applicativi. Ai gruppi bancari di maggior rilievo è stato chiesto di adeguarsi prontamente agli standard da ultimo emanati dal Financial Stability Board e di pianificare entro fine anno gli eventuali interventi correttivi. Insomma, molto chiaro, il governatore della Banca d'Italia ha detto: attenzione, la Banca d'Italia vi aveva già dato delle direttive che poi sono state recepite a livello internazionale dal Financial Stability Board, quindi dalle banche centrali di tutto il mondo, e questi obiettivi fanno sì che d'ora in avanti anche il tema dei compensi e quindi degli stipendi sarà oggetto di vigilanza, quindi della Banca Centrale Europea. Non è più un problema di contratto di lavoro, di risoluzione tra due soggetti privati che decidono quanto pagare un manager o un amministratore delegato. Vigileremo su questo perché, e questo lo aggiungiamo noi, si è scherzato molto, soprattutto Wall Street, con i compensi milionari di manager bancari che poi hanno visto crollare o addirittura fallire in alcuni casi la banca che dirigevano, che si sono assunti rischi intollerabili e poi infatti intollerati, e tutto ciò a fronte di guadagni altissimi mentre venivano licenziati migliaia di dipendenti. E allora questi guadagni dovranno essere sottoposti a un controllo. E come? Lo avete appena sentito, la parte variabile, che sarà quella preponderante, quindi non la parte fissa dello stipendio, sarà in azioni, potrà essere data dopo 3 anni, riscosso dopo 3 anni, e a fronte però di una verifica che nel frattempo la banca o l'istituto finanziario non abbia avuto difficoltà, cioè che le scelte operate dei manager e i bonus che ricevono per queste scelte siano effettivamente scelte operate in maniera oculata e sana, non legate solo al brevissimo periodo, quindi all'andamento del titolo che poi magari dopo un anno nemmeno viene venduto, e ha chiesto che le banche si diano una mossa a mettere in pratica queste regole. Visto lo braccio di ferro in corso anche tra Svizzera e Italia sui paradisi fiscali, Mario Draghi è stato chiarissimo: abbiamo avviato un processo di revisione per far uscire le banche italiane da quei luoghi in cui, la formula è un po' così astrusa, non c'è cooperazione, in cui in sostanza il diritto non è, e la cooperazione tra le informazioni non è soddisfacente e adeguata. Anche per ciò che riguarda la presenza delle banche italiane nei paradisi fiscali, la Banca d'Italia ha avviato un processo di revisione al termine del quale si aspetta che gli intermediari italiani vadano via dalle cosiddette giurisdizioni non cooperative. Siamo ora a una fase decisiva. Lo slancio che la cooperazione internazionale ha avuto nel concepire e nel disegnare nuove regole per la finanza del mondo deve tradursi in una loro attuazione rigorosa a livello nazionale, armonizzata sul piano internazionale. Questo è molto importante perché dalla crisi non si esce col protezionismo, tantomeno col protezionismo finanziario. I paesi con la giurisdizione non cooperativa sono i paradisi fiscali, la blacklist o anche la lista grigia, quelli che non vogliono dare informazioni. Attenzione, vi faremo uscire da lì. Comunque, l'ultimo passaggio che vi facciamo ascoltare è quello relativo allo stato dell'arte, lo stato di salute della nostra economia, perché il governatore ha chiesto che vengano adesso attuate le riforme. Quando si parla di riforme si parla in primo luogo di riforma delle pensioni, anche perché se si vogliono trovare dei soldi per abbassare le tasse alle famiglie e anche eventualmente alle imprese, l'unico modo obiettivamente può essere solo quello di trovarli con la lotta all'evasione, ma lì gli effetti sono più lunghi, e poi con l'innalzamento dell'età pensionabile. Riforme e soprattutto fare attenzione perché aumenteranno i disoccupati, aumenterà la perdita di posti di lavoro. Noi italiani oggi abbiamo il vantaggio di un livello di debito privato basso rispetto a quello di altre economie e di un sistema bancario che non è stato direttamente danneggiato dalla crisi. Abbiamo però la necessità di affrontare le debolezze strutturali della nostra economia per costruire una durevole ripresa che non poggi soltanto sulle esportazioni. Un anno fa, in questa sede, sottolineavo come di fronte al repentino aggravarsi della crisi fosse necessario attivare politiche di sostegno della domanda, dei redditi delle fasce sociali più colpite, pur nella consapevolezza dei condizionamenti imposti dall'alto debito pubblico. Oggi, e qui richiamo le parole del Presidente Guzzetti, anche l'urgenza è riprendere il cammino delle riforme per riportare il Paese negli anni a venire su ritmi sostenuti di crescita economica che sono anche il primo presidio della stabilità finanziaria. Se i sondaggi qualitativi delineano dalla primavera un quadro più favorevole, restano deboli i segnali quantitativi, soprattutto sulle componenti interne della domanda. Nell'anno terminante a settembre scorso, i consumi delle famiglie si sono ridotti del 2%, e questo per la contrazione del reddito disponibile reale e per il peggioramento del mercato del lavoro. In quello stesso periodo l'occupazione è scesa del 3,3%, cioè di 650.000 unità. L'incidenza della cassa integrazione sul monte ore lavorate è passata dall'1,5 al 10%. Registreremo presumibilmente ulteriori perdite di occupazione in questi mesi finali dell'anno. E allora, per non agganciare la ripresa solo con le esportazioni, quindi di avere una ripresa fragile, occorre far ripartire i consumi interni, occorre liberare risorse, ecco perché occorre fare le riforme, a partire, aggiungo io, perché era chiaro il messaggio, da quella delle pensioni, per sostenere i redditi, quindi agevolazioni fiscali, taglio delle tasse per i redditi più bassi, anche perché se si vogliono far ripartire i consumi bisogna tenere presente il fatto che abbiamo già perso 650.000 posti di lavoro a settembre e, come avete appena sentito, secondo il governatore, altri ne verranno persi da qui a fine anno, e i consumi sono in calo di un 2%. La risposta in qualche modo del ministro Tremonti, al quale ha detto: attenzione, il sistema pensionistico italiano è fra i più stabili di Europa e quindi non si parla per ora di riforma delle pensioni, e l'Italia è, quanto a debito pubblico e altre componenti, allineata alla Francia e alla Germania ed è in una posizione più solida rispetto alla Gran Bretagna, all'Irlanda e alla Spagna. Anzi, ha aggiunto Tremonti, su molti indicatori l'Italia si è dimostrata più solida di Francia e Germania. Quanto all'aiuto alle imprese e ai loro occupati, dopo la moratoria per le piccole e medie imprese sui debiti con le banche, il ministro dell'economia ha annunciato che sta lavorando per organizzare uno o più fondi di assistenza alle imprese per il rapporto tra debito e patrimonio. Stiamo già lavorando al Ministero dell'Economia con rappresentanti del mondo bancario per organizzare lo schema di uno o più fondi che sul territorio assistano le imprese in rapporto tra debito e patrimonio. Credo che sia una delle misure fondamentali anticrisi in questa fase della crisi per il nostro Paese. Non è escluso, anzi è fondamentale, come fu la promessa per la moratoria, vedere cammello, un adattamento del regime fiscale. Direi che, dovendo fare un adattamento al regime fiscale, io lo farei più dal lato delle imprese che dal lato delle banche. In ogni caso, tutto si tiene e può essere una combinazione, ma se c'è una sinergia tra le due attività. E poi i temi toccati dal ministro Tremonti per quello che riguarda la situazione attuale. Vedo alcuni messaggi molti messaggi al 349-238-6666. Adesso arriveremo anche con una risposta. Per inciso, nessuno qui dice che sia auspicabile l'aumento dell'età pensionabile in senso stretto. Il problema è che se tu vuoi liberare risorse in un paese che ha il debito più alto d'Europa, il terzo debito al mondo, in cui l'economia non ripartirà in maniera folgorante, o tu trovi delle risorse in altro modo, quindi spendendo meno, mandando la gente in pensione a 58 anni, oppure devi aumentare la tassazione, che non mi sembra una gran misura. Devi fare che cosa? La patrimoniale? La tassa sui patrimoni? Insomma, non ci sono moltissime strade. Allora forse è meglio ragionare di una riforma dell'età pensionabile per liberare risorse. Dicevo del ministro Tremonti e della sua analisi della crisi, sempre un po' immaginifico Tremonti, con esempi coniati anche dal mondo giovanile, adesso sentirete perché. Comunque, ha detto Tremonti, la crisi si è in qualche modo bloccata, soprattutto grazie agli interventi degli stati, e però è una specie di così camaleonte, di oggetto che muta in continuazione questa crisi. Io credo che la morfologia, la fenomenologia della crisi, la sua patologia siano in continuo divenire, un po' come in un videogame. La crisi però, è vero, è giusto, si è in un qualche modo bloccata e fermata, e questo è stato per l'intervento degli Stati. Non tanto, non solo per quello che hanno specificamente fatto, ma per il fatto che sono intervenuti gli Stati. E l'intervento degli Stati nel mondo, in Italia, ha trasmesso un messaggio di fiducia, un messaggio fondamentale di confidenza. La mano pubblica, più nel mondo che in Italia, la mano pubblica ha fatto due cose fondamentali: immissioni di liquidità a colli privati di debito pubblico. E quindi è tornato su un suo vecchio cavallo di battaglia il ministro Tremonti. Attenzione, è l'intervento degli stati, il fatto che ci siamo caricati danni del privato come debito pubblico, aiutando le banche, aumentando la loro capitalizzazione, garantendo la solidità del sistema finanziario e bancario, è questo che ha permesso al mondo di uscire dalla parte perlomeno finanziaria e più pericolosa della crisi. Questo poi ha tutto un portato nel ragionamento, perché da lì poi Tremonti, ma non è l'unico, molti altri suoi colleghi dicono: bene, se vi abbiamo salvato noi, adesso però seguite le regole che noi vi diamo, lo dicono al mondo finanziario e bancario, non potete tornare a fare quello che facevate prima. Invece, stando a quello che ha detto lo stesso ministro dell'economia, il mondo della finanza, quindi non solo le banche, è esattamente tornato a fare quello che faceva prima. Una precisazione a chi scrive al 349-238-6666 in tema di età pensionabile. Allora, è inutile a mio avviso scrivere: ecco, volete far morire gli operai dentro le fabbriche per risanare i conti dello Stato. Allora, i lavori usuranti, se questo è il tema, sono da sempre esclusi e hanno un trattamento particolare per la riforma dell'età pensionabile, e comunque mi sembra che il ministro Tremonti abbia escluso questa riforma, per cui tranquilli su questo. Io dico, ma se uno fa l'impiegato, ha dei lavori non usuranti, si può ipotizzare ad arrivare a 61-62 anni, si può arrivare a un'età media più simile a quella europea? Anche la radio, lo dite perché lavorate in radio, che non è un lavoro usurante. Sì, non è un lavoro usurante, dipende da chi parla e da chi scrive. Detto ciò, sentiamo Tremonti sui vizi, vizietti che sono tornati in auge nei mercati finanziari. Ci sono due cose che ci devono oggettivamente preoccupare. Primo, il livello delle borse è tornato ante crisi, senza che i fondamentali dell'economia reale siano tornati ai livelli ante crisi. Quindi la simmetria tra i valori di borsa e i corsi dell'economia reale è cresciuta e non è scesa. Secondo, la massa dei derivati non sembra in riduzione ma in aumento. Certo, anche prima della crisi si diceva ci sono squilibri globali, è vero. Però si diceva c'è anche l'industria dei derivati che riduce il rischio, lo distribuisce, produce un effetto positivo. Questa analisi confondeva il male con la cura. Non è vero che quel tipo di finanza migliorava, risulta vero che quel tipo di finanza peggiorava i corsi della realtà. E allora ci sono due cose di cui ci dobbiamo preoccupare: il ricorso di nuovo massiccio agli strumenti di finanza derivata e a operazioni sui mercati dei titoli, diciamo, che nulla hanno a che vedere con l'investimento in senso classico, ma con la speculazione pura fatta nel millesimo di secondo, e poi queste borse che, insomma, lo ha detto il ministro Tremonti, continuano a correre, continuano a registrare rialzi anche oggi, però l'economia non li sta seguendo. Il recupero delle economie, ammesso che sia già iniziato, è molto lento ed è previsto essere molto lento. Lo stesso governatore Draghi ha detto ci vorranno almeno 3 anni, perché nelle crisi precedenti ce ne sono voluti almeno 2, visto che questa è superiore a tutte quelle precedenti, diciamo almeno 3 anni. Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. E allora preoccupiamoci, perché anche oggi i mercati hanno fatto un più 2%. Motivo? Beh, come tu già ricordavi, diciamo un rimbalzo generale dopo il brutto andamento di ieri è stato amplificato dai dati statunitensi sul prodotto interno lordo del terzo trimestre. Dopo 4 trimestri consecutivi di calo, il PIL degli Stati Uniti è cresciuto del 3,5% nel terzo trimestre 2009, risultando migliore delle previsioni degli analisti, che prevedevano più 3,2%. Questo ha innescato un buon inizio di seduta e anche una buona prosecuzione a Wall Street, e ha amplificato quello che era già il tema della giornata, cioè un buon recupero dei bancari, dei finanziari in generale, e un bel rimbalzo del settore auto. Sì, allora io sono contento per i rimbalzi, però vorrei anche capire com'è che un titolo perde il 5 un giorno e il giorno dopo guadagna un più 5 in assenza di notizie. Lo dico con massimo rispetto, ma mi riferisco a Bulgari più 6,5%, Fiat più 5,90%, e ancora Pirelli più 4,7%, Buzzi Unicem più 3,6%, Tenaris più 3,20%. Va benissimo, però o erano sbagliati quei cali, o sono sbagliati questi rialzi, oppure, che sospetto che ho io, si sta semplicemente speculando sull'intraday e, insomma, si va a fare compravendita al minuto. Più giustificato invece il rialzo dei titoli bancari oggi, mi riferisco a Unipol più 5,6, Mediolanum più 5,3, Popolare Milano più 5, Fondiarie più 4,90, Banco Popolare più 4,2, Unicredit più 4%. E perché, Andrea, in una battuta? Beh, certamente i conti di Deutsche Bank sul terzo trimestre hanno dato un po' la tendenza e l'umore a tutto il comparto, questo si è riflettuto anche sui titoli italiani, dove Unicredit è stata la migliore, ma ne ha ben beneficiato anche Mediobanca dopo la trimestrale con ritorno all'utile di ieri e anche Intesa San Paolo. Sì, io dico adesso, arriveranno le trimestrali delle banche europee adesso e mi auguro che siano buone. Certo che vedere che Deutsche Bank ha triplicato l'utile a 1,4 miliardi, una delle banche europee più colpite dal fenomeno degli asset, dei prodotti tossici, complimenti, bravi, vorremmo anche capire come avete fatto, nel senso che quando uno va a vedere Goldman Sachs il 70% dell'utile è stato fatto con operazioni sui mercati dei titoli, quindi tornando a fare a prendersi rischi sui mercati azionari e non, diciamo, attraverso i prestiti della clientela e altre forme di investimento. 1,380 miliardi di utile per Deutsche Bank con l'utile triplicato. Allora, vedo alcuni che scrivono, ma insomma fateci capire, ma la crisi chi la sta vivendo? Le banche triplicano i loro utili, noi stentiamo ad arrivare a fine mese. Beh, è indubbio che in questi mesi la crisi si sia spostata, e lo diciamo anche spesso, sulla parte, diciamo, del lavoro dipendente, del lavoro delle imprese private, dell'economia come si chiamava una volta reale, e non sulla parte finanziaria, anzi hanno recuperato prima di ogni previsione, il che va benissimo, nessuno vuole banche deboli in difficoltà, bisogna capire come questo è avvenuto e eventualmente anche sulle spalle di chi, mi riferisco alle banche mondiali, quindi americane ed europee, poi vedremo anche gli utili di quelle, gli utili eventuali di quelle italiane. Comunque, Andrea Fontana, abbiamo detto dei rimbalzi un po' generalizzati delle banche e che giustificano questo rialzo anche dopo le parole del Presidente del Consiglio Berlusconi, le assicurazioni invece che bene sono andate? Sì, le assicurazioni hanno un po' sfruttato un po' l'andamento appunto di tutti i finanziari che beneficiavano anche non solo, abbiamo visto, delle buone notizie dalla Germania ma anche dall'Inghilterra, dopo che il Financial Times ha indicato la possibilità che il governo britannico intervenga con un piano di rifinanziamento per Lloyd's. Quindi, nonostante conti non troppo brillanti da parte di uno dei principali attori del mercato assicurativo europeo, cioè AXA, la giornata positiva dei finanziari si è riflettuta anche sugli assicurativi italiani. In particolare è stata brillante la performance di Unipol e di Mediolanum, entrambe sono salite di oltre il 5%. E è andata molto bene anche Fondiaria Assai, che ha guadagnato il 4,9%, quindi nonostante AXA gli assicurativi sono stati ben acquistati, generali un po' eccezione, è salita più un 1,5%, ma ha fatto meno bene rispetto al della media. Allora, le trimestrali invece dei grandi gruppi petroliferi, oggi abbiamo dato quella di Exxon e di Shell, tutte in netto calo, 60% di utili in meno per Shell, che comunque ha fatto 3,250 miliardi di utile nel terzo trimestre, e calo brusco anche per il gigante petrolifero americano ExxonMobil, utile in calo a 4,730 miliardi, ossia un terzo rispetto ai 15 miliardi dello stesso periodo di un anno fa. Eni pure con la semestrale, questo giustifica anche la debolezza oggi del settore energetico. Da noi Eni alla fine ha chiuso in parità, perdeva, ma debole anche Snam più 0,2, Terna più 0,4, debole rispetto alla media di mercato. L'ultimo titolo che per te è Telecom Italia. Come è andato il titolo, ma come sono andati anche i titoli della Galassia Benetton che sono usciti da Telecom? Per quanto riguarda Telecom Italia, sicuramente una giornata in generale sottotono, che però ha permesso poi alla fine, proprio nell'ultima ora di negoziazione, al titolo di recuperare grazie alla forte scia un po' di tutti i mercati, ma tendenzialmente sottotono, vista l'uscita appunto della famiglia Benetton dalla scatola, diciamo così, di controllo o comunque dall'azionista di riferimento di Telecom Italia, cioè Telco, e questo ha in generato una serie di incertezze sul mercato, nonostante Corrado Passa, amministratore delegato di Intesa San Paolo, che fa parte appunto di Telco, abbia detto che sostanzialmente non cambia nulla con l'uscita dei Benetton. Comunque il titolo ne ha un po' risentito inizialmente, poi ha guadagnato nell'ultima ora. Molto bene invece per quanto riguarda i titoli della Galassia Benetton, Autogrill, Atlantia, lo stesso Benetton Group, cioè l'azienda tessile, e Gemina, cioè la scatola che controlla aeroporti di Roma, hanno tutte corso molto meglio del listino. In generale il mercato ha, diciamo così, apprezzato questo parziale iniziale disimpegno da Telecom Italia e da Telco in particolare, e punta al fatto che forse gli investimenti della famiglia si concentreranno di più sulle altre controllate, che quindi ne hanno beneficiato. Grazie Andrea Fontana, Radio Colli, Sole 24 Ore. Dicevamo borse ben intonate anche per e soprattutto per i dati americani. Allora parliamo proprio di economia a stelle e strisce. Mario Platero in collegamento con noi da New York, dove è corrispondente per il Sole 24 Ore. Buonasera. Buonasera. Allora Mario, più 3,5% quasi, anzi più 3,5% del PIL americano nel terzo trimestre, primo rialzo dopo oltre un anno di crisi e di cali nel PIL statunitense. Molto bene anche i consumi nel terzo trimestre, più 3,4%, però i disoccupati non diminuiscono come ci si attendeva, e infatti restano fissi a 530.000 i sussidi alla disoccupazione, tant'è che Timothy Geithner, il segretario del Tesoro americano, dice per milioni di americani gli effetti della recessione restano. Come si tengono assieme le due cose? Ma le due cose sono, intanto c'è sempre un lag time sui tempi della creazione dell'occupazione, cioè nel momento in cui tu hai una ripresa dell'economia, hai poi un periodo di tempo più lungo, appunto un lag time, che ti serve per poter, diciamo così, cominciare a rimettere in moto anche l'occupazione. In effetti l'occupazione ha cominciato a crollare quando la crisi ormai era molto più avanzata, insomma ci sono sempre delle differenze di tempo in queste situazioni, però il problema in questo caso è leggermente più serio, cioè ci si domanda se questo ritardo dell'occupazione, al di là della sua componente fisiologica, non sia anche un ritardo strutturale. Anche perché, ecco, che io non vorrei adesso sembrare più pessimista del dovuto, ma questo dato è straordinariamente buono, è al di sopra delle aspettative, siamo tornati alla crescita, ma è anche un dato che possiamo dire di avere grazie a una manovra di stimolo che ha già comportato un'iniezione di centinaia di miliardi di dollari nell'economia. Allora, più che pensare a quello che è successo oggi, dovremmo pensare a quello che succederà un po' più in là, l'anno prossimo. E cioè la domanda di fondo è questa una ripresa sostenibile o è una ripresa drogata? Ecco, su questo ci sono vari dubbi, ci sono per esempio due economisti importanti, Bruce Kasman di JP Morgan, che pensa che l'economia continuerà a crescere intorno al 3,5% mediamente per tutto l'anno prossimo. Ma invece Jan Hatzius, che è il capo economista di Goldman Sachs, è molto più prudente e pensa che l'anno prossimo la crescita si assisterà attorno al 2% e poi addirittura scenderà intorno all'1,5% verso la fine dell'anno. Perché questo? Perché a settembre dell'anno prossimo terminerà il programma di stimoli per l'economia. L'idea è che ci sia un ponte tra gli stimoli del governo americano e una ripresa, diciamo così, naturale dell'economia. Ecco, questo per ora non si è verificato. Gli stimoli cesseranno di esistere intorno a settembre dell'anno prossimo, e quindi un paio di economisti hanno opinioni divergenti. Per esempio uno sostiene di Goldman Sachs che per la fine dell'anno prossimo ci troveremo un tasso di crescita grosso modo dell'1,5%, mentre invece JP Morgan sostiene che il tasso sarà più elevato, sarà mediamente del 3,5%. C'è un punto però su cui entrambi concordano ed è questo che mi preoccupa un pochino, e cioè entrambi dicono ci vorrà un nuovo piano di stimoli, nel momento in cui a settembre si esaurirà il vecchio piano di stimoli ce ne vorrà un altro. Questo cosa significa? Che nell'uno o nell'altro pensano che questa ripresa possa diventare sostenibile in modo autonomo. Ecco, allora questo sarà il vero punto dolente dell'intera situazione dal punto di vista congiunturale guardando in avanti. Avremo una risposta in questo senso probabilmente intorno a marzo-aprile, insomma. Beh, grazie Mario anche per la lucidità con cui hai analizzato un dato che altrimenti potrebbe generare euforia assolutamente fuori luogo come quello di oggi sul PIL e sui consumi americani. Ultimo tema che tocchiamo, domani si apre l'appuntamento annuale dei giovani imprenditori di Confindustria a Capri, si parlerà anche e soprattutto di nuovi orizzonti economici. E allora, come ogni anno, dicevamo, domani saremo in diretta come ogni anno con Focus Economia da Capri, la prima giornata di lavori per quello che riguarda il convegno, due giorni di convegno organizzato dai giovani imprenditori. Si discuterà di Mediterraneo, poi sabato vi saranno gli interventi del ministro Maroni da un lato, ma anche del ministro Tremonti, del presidente della Camera Gianfranco Fini e della presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Il tema è Mediterraneo, dall'Europa al Golfo, la rotta verso nuovi orizzonti. Abbiamo raggiunto poco fa la presidente dei giovani industriali Federica Guidi, chiedendole in primo luogo se non rischiasse di essere un tema poco attuale. Non credo, credo che abbiamo tanto parlato tutti, anche come giovani imprenditori a Santa Margherita, della crisi, del contingente, delle misure emergenziali. Bene, i giovani imprenditori dopo questo pensano anche al futuro, ecco, credo che sia un messaggio non solo positivo e di speranza, ma anche un messaggio ai giovani imprenditori che guardano a quello che servirà subito dopo, speriamo prima possibile, subito dopo questo momento di crisi, quindi a nuovi sviluppi, nuovi mercati, nuove strategie di crescita per il nostro paese. Dall'Europa al Golfo significa che voi puntate anche alla zona del Medio Oriente, non all'area del Mediterraneo in senso stretto? Certo, noi crediamo che in qualche modo il Mediterraneo, che comprende naturalmente anche i paesi appunto del Golfo, sia una porta naturale poi verso l'Africa. Ci sono tante Afriche oggi, ce n'è una forse più pronta, diciamo una invece meno oggi ancora vicina, diciamo, da un punto di vista anche industriale. Ecco, noi crediamo che comunque tutta quell'area sia un'area che merita interesse, ma soprattutto una strategia, una cabina di regia che possa in qualche modo organizzare meglio e prima di come è stato fatto in passato per la Cina, per l'India o per il Brasile, un sistema che in qualche modo si muova, sul quale poi le imprese italiane debbano e possano trovare opportunità nuove. Ancora sui temi di attualità, perché molto si discute, se ne è parlato anche a Mantova, del timore che hanno in primo luogo le piccole imprese, piccole e medie imprese, di non riuscire a superare questa parte della crisi più economica e occupazionale, quindi sui posti di lavoro, e molto si è parlato anche di IRAP. Vorrei una prima riflessione, poi arriveremo anche alle proposte che stanno circolando, IRAP ma anche l'Agenzia per le aggregazioni. Vorrei sapere se noterete, verrà ed emergerà una particolare sensibilità proprio dei giovani imprenditori, perché dovrebbero essere sono quelli loro che vedono o potrebbero vedere svanirsi il posto di lavoro, anche se poi per posto di lavoro intendiamo l'impresa. Voglio dire, chi ha una certa età e ha fatto impresa può anche ragionare e dire vabbè, sapete cosa c'è, mi ritiro dall'attività. Questo è un ragionamento che è impensabile per un giovane. Assolutamente sì, abbiamo detto che nessuno di noi vuole, diciamo, rinunciare all'idea di poter continuare a fare questo mestiere in questo paese. È evidente che il momento è difficile, credo anch'io che ci siano ancora delle grosse criticità, oggi evidentemente diciamo qualcosa è migliorato, ma sicuramente ancora oggi le imprese soffrono di un calo del portafoglio degli ordini, di un calo del fatturato, che sia meno 15, che sia meno 20, insomma le previsioni sono ancora di un'uscita che purtroppo non è così immediata. Questo però non significa rinunciare a pensare che ci possono essere degli strumenti, delle misure, comunque senz'altro l'ottimismo, ecco, diciamo così, la parte nostra, la voglia di rischiare, pur in un momento che, insomma, tutti sappiamo, ecco, è fatto di tante difficoltà ancora.